la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Guarda, io mi ricordo un episodio in particolare. È un episodio semplicissimo. Io ero a Palermo e venne a suonare proprio dietro casa mia. Era una di quelle estati in cui a Palermo succedevano un sacco di concerti. Venne a suonare Devendra Banhart, un cantautore americano che tra l'altro a me piaceva tantissimo. Io ero in un momento in cui scrivevo tantissime canzoni, avrò avuto 19-20 anni. Era in un momento in cui non facevo sentire le mie canzoni a nessuno. Pensavo, le custodivo con una timidezza quasi, con pudore, quasi come se veramente si trattasse di della mia nudità. E la trattavo come una nudità, appunto. Quindi non le facevo ascoltare a nessuno, ma le registravo. Feci un passo importante per la mia vita. Quel giorno registrai, copiai queste canzoni, queste registrazioni su un disco, su un CD, e decisi di andarle a portare a Devendra, questo cantautore, durante il soundcheck, quindi nel pomeriggio. Andai lì, era proprio dietro casa mia, andai lì e glielo diedi. Scambiamo quattro parole, insomma, così. Lui era gentilissimo. E tornai a casa, non so perché sentii di fare questa cosa. Fatto sta che la sera, poi, durante il concerto, quando c'erano già 10.000 persone lì in piazza a guardare lui, che era un po' la star del momento della musica alternativa, proprio nel bel mezzo del concerto finisce un pezzo e dice: oggi un ragazzo è venuto e mi ha lasciato dei pezzi che ho scoperto essere bellissimi, adesso lo vorrei invitare qui sul palco. Fabrizio, dove sei? Vuoi suonare una delle tue canzoni? Fantastico. Allora, fai conto che io prima di allora non avrò suonato forse, non lo so, avrò suonato 15 volte davanti a un pubblico di 20 persone suonando cover, mai una cosa mia. E là mi trovo davanti a 10.000 persone. Tu sei salito, con la sua chitarra. Ovviamente sì, io mi ricordo esattamente quell'afflato, proprio quel batticuore non me lo scorderò mai, proprio veramente uno di quei momenti, quelle memorie che ti rimangono per tutta la vita. Ricordo, avevo il cuore che mi scoppiava, scavalcato robe, transenne, la sicurezza che mi guardava male, non capiva se fossi io quello che stava chiamando. Sì, insomma, salgo sul palco col cuore in gola, mi dà la sua chitarra, lui resta sul palco, mi segue, insomma, con un tamburello, e io faccio una delle mie canzoni, una di quelle che era dentro quel CD. Che come si intitola? Si intitolava Baghdad Town. Era una cosa che parlava appunto di, era una sorta di canzone alla maniera folk americana, però che parlava di Baghdad, di questo, però come se Baghdad fosse una cittadina del Texas, insomma, una roba un po' in cui, cioè, tentavo di immischiare un po' di cose. Erano gli anni della guerra in Iraq, con un testo molto semplice, appunto come le canzoni folk americane di Bob Dylan, per esempio, no? E allora, insomma, feci questo pezzo e lì capì che veramente era cambiato qualcosa, e da quel momento io forse ho deciso veramente quale fosse la mia strada. Per convincermene al 100% ci ho dovuto mettere un po', però è là che la porta si è aperta. Di Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati. L'ospite di oggi è Fabrizio Cammarata, palermitano, musicista, viaggiatore, in uscita proprio da pochi giorni con un nuovo album. Un nuovo album che tra l'altro ho avuto l'onore di ascoltare in anteprima, alcune tracce bellissime, te lo dicevo proprio pochi istanti fa. Un album, almeno le tracce che ho sentito, che mi è piaciuto da subito perché tocca delle corde molto intime, ha una ricerca musicale, anche un utilizzo di strumenti che ricorda anche questo tuo viaggiare. Il titolo dell'album è Off Shadows. Ecco, volevo chiederti innanzitutto come sei arrivato a questo lavoro. Come sono arrivato a questo lavoro? Intanto il tuo riferimento al viaggio. Musica e viaggio per me sono fondamentalmente la stessa cosa, sono due facce della stessa medaglia da sempre. Io non ho mai viaggiato senza fare musica e non ho mai fatto musica senza viaggiare, quindi non riesco proprio a distinguere queste due cose. E probabilmente tutto quello che tu dici, che anche se non sei una critica musicale come dici tu, però in realtà ecco, questo tipo di considerazioni in realtà per me valgono molto più di qualsiasi critica, perché evidentemente significa che è passato proprio quello che è il mio mondo. Il disco è nato da qualcosa di molto intimo. Come dici tu, insomma, penso che quello che intendevi era proprio che si tratta di un lavoro appunto molto personale, forse probabilmente il più personale da quando faccio questo mestiere, il più intimo, quello in cui più mi sono saputo mettere a nudo. Probabilmente è nato è da parecchio tempo che io non facevo, era da parecchio tempo che non facevo un disco mio sotto il mio nome, dal 2011. Poi ho fatto varie collaborazioni, ho fatto un disco con Paolo Fuschi, che è un chitarrista di Manchester, ho fatto un disco con Di Martino su Chavela Vargas, comunque dei progetti diciamo un po' più pensati, molto divertenti, e anche con degli obiettivi proprio fra virgolette culturali in qualche modo. Non ho mai smesso di scrivere ad ogni modo, però ogni diciamo con una cadenza abbastanza frequente mi chiedevo sempre se fosse il momento di ritornare in studio, di ritornare con un disco mio. E ho avuto, forse perché non sono più un ragazzino, ho avuto la maturità, mi viene da pensare, di dirmi ogni volta no, che non era il momento, non era il momento, non era il momento. A un certo punto, all'inizio di quest'anno, ho capito quale poteva essere la chiave di questo disco, in cui c'erano canzoni scritte 6 anni fa, canzoni scritte una settimana prima, però tutto in qualche modo mi si è chiuso proprio il cerchio. Allora da lì in poi è stato semplicissimo ed è stato immediato, quindi è nato così il disco. Ma ti ricordi se ci sono stati degli elementi che ti hanno portato proprio ad essere sicuro che quello fosse il momento? Cioè c'è stata un'alchimia, qualcosa che ti ha... Ho capito che c'era in tutto quello che avevo fatto negli ultimi anni un filo conduttore. E questo filo conduttore, diciamo, era un po' qualcosa che potremmo chiamare forse una sorta di autoanalisi sulle esperienze fatte negli ultimi tempi. Un'autoanalisi in cui non ho avuto mai timore di andare a fondo dentro la mia anima, e parlo anche delle parti più scomode della tua anima, quelle che magari puoi considerare più buie o addirittura più cattive, tutte quelle cose che restano soltanto nella tua stanza. Ecco, io ho capito che stavo facendo questo lavoro su di me, ho capito che questa cosa era proiettata in maniera veramente molto chiara su tutte le canzoni che avevo fino a quel momento. Per questo ho chiamato così il disco Off Shadows. Off Shadows è una titolazione un po' all'antica, se vogliamo, perché richiama un po' alcuni titoli dei vecchi saggi di filosofia naturale, no? Come il De Rerum Natura, insomma, questa roba qua. Quindi è sulle ombre, un po' lo tradurrei così in italiano. Ecco, quindi mi piace pensarla proprio come quasi uno studio, fra virgolette, accademico sulle mie di ombre. Però sono tutte ombre raccontate in inglese, un po' ti sei nascosto, diciamo, dietro la lingua, oppure è proprio una tua espressione, nel senso che probabilmente il fatto di utilizzare l'inglese ti protegge anche dal giudizio degli italiani, il giudizio immediato almeno. Forse dal giudizio di mia madre che non lo parla. No, a parte gli scherzi. Perché ci sono dei riferimenti anche. No, no, no, no, no, no, no, assolutamente era tanto per dire. In realtà, diciamo, quello che dice è molto relativo perché giro tanto il mondo. Nella maggior parte dei posti dove vado a suonare mi capiscono benissimo. Quindi quando... è potenziato, diciamo, quindi al contrario. Quindi semmai, esatto, è un target molto più ampio a cui io vado a raccontare tutti i miei fatti più personali, se vogliamo. Quindi, sì, no, non è un... Cercando di rispondere seriamente alla domanda, non è assolutamente un modo di nascondersi, anzi, io anche nell'interpretazione, chi mi vede dal vivo lo sa benissimo, veramente cerco di mettermi a nudo il più possibile, perché per me è una terapia. Io tutto ciò che metto nella musica, anche quei lati più veramente oscuri, bui e scomodi, come dicevo poco fa, in realtà poi nella mia vita normale di tutti i giorni non ci sono, perché appunto li esorcizzo lì. Quindi sarebbe un controsenso per me cercare un nascondiglio. La lingua non è un nascondiglio, assolutamente. Io scrivo in inglese da sempre, non ho mai scritto una canzone in italiano in vita mia. Quindi, ma perché? Perché sono cresciuto così. Nonostante abito a Palermo da sempre, ho sempre, fin da bambino, viaggiato tantissimo. Mi sono abituato a considerare come casa non soltanto la mia città, ma tantissimi altri posti nel mondo. Quindi la lingua che ha unito tutti questi posti è sempre stata la lingua della musica che io ascoltavo fin da bambino. E la musica che ascoltavo da bambino era quella, era Bob Marley, erano i Beatles, erano i Rolling Stones, erano i Bob Dylan. Quindi diciamo che una madrelingua musicalmente io ce l'ho, e su questo non ho dubbi. Ora ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco. Ciao Ivana, allora domenica mattina andiamo a correre. Beh, sì, la maratona ci aspetta. Io sono carichissimo, mi sono allenato per mesi, ho seguito tutti i consigli di Personal Best su Radio 24. Ok, allora ci vediamo domenica mattina alle 6.30 puntuale. Alle 6.30? Sì, così mentre andiamo ascoltiamo la nuova puntata di Personal Best. Ma io alle 6.30 non ce la faccio, è troppo presto. Vabbè, e la trasmissione? Che problema c'è? La possiamo ascoltare quando vogliamo, c'è il podcast. Sei proprio un podista della domenica. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. La prima volta. Ben ritrovati a questa seconda parte della prima volta in compagnia di Fabrizio Cammarata, artista, cantautore siciliano, anzi palermitano, perché Palermo, come vedremo in questa storia, ha un ruolo centrale. Fabrizio si laurea in ingegneria e solo dopo aver conseguito la laurea decide di muoversi sempre più apertamente nel mondo della musica. Vabbè, i miei studi sono un po' noiosi perché, perché in verità io ho una vita precedente in cui facevo l'ingegnere. Dopo la laurea in realtà ho deciso subito che avrei fatto questo di percorso, senza tanti pentimenti, diciamo. E a casa come l'hanno presa? Inizialmente non erano felicissimi, ma veramente non c'è soddisfazione più grande per me di vedere i miei genitori che sono contenti di quello che faccio oggi e che soprattutto cominciano veramente a capirne lo spirito più profondo. E mi piace pensare che anche con loro parlo più in maniera più intima attraverso i miei dischi che attraverso le nostre conversazioni di tutti i giorni. Per il resto io cosa posso dirti? Sono dell'82, sono nato a Palermo, cresciuto a Palermo, e quindi avevo 10 anni quando a Palermo abbiamo avuto il nostro 11 settembre, quello del 92, quello delle stragi. Ricordo benissimo l'esercito in strada a Palermo. Non ho usato a caso l'espressione il nostro 11 settembre, perché noi palermitani il nostro già ce l'abbiamo avuto tanti anni fa, ed è quello. Noi tutti ricordiamo dove eravamo il 23 maggio e il 19 luglio del 1992, quando veramente ogni speranza sembrava persa. E noi piccoli, noi bambini, questa cosa l'abbiamo veramente marchiata sulla pelle come uno di quei traumi che non ti scorderai mai. Invece nelle generazioni successive, che questa cosa non l'hanno vissuta, la vedo una certa differenza. Lo vedo che è una generazione che un po' meno ferita. Dall'altro lato io credo che comunque sia stato il fatto di esserne stati testimoni di questa cosa, abbiamo dovuto trasformarla in una risorsa. E anche noi artisti, quelli che oggi fanno gli artisti, diciamo, della mia età, Ecco, questo marchio si sente sempre, quest'ombra che aleggia un po' su questa Palermo, che non è soltanto una città, ma è anche un... Esiste la palermitanità, diciamo, in senso veramente quasi spirituale, non so nemmeno spiegarlo bene. Ma ed è per questo anche che tu hai deciso di rimanere a Palermo e continuare a scrivere le tue canzoni a Palermo. Io credo che non ci siano tante altre città in cui si sente quel senso di appartenenza nel bene e nel male come Palermo. E non parlo nemmeno di Sicilia, parlo proprio di Palermo. Quello che significa essere nato e cresciuto lì è qualcosa che comunque io, da parte di tutti quelli che sono nati là, io sento proprio questo senso di appartenenza, a volte vissuto come una prigionia, soprattutto da chi decide di andare via. E chi decide di andare via, io vedo sempre quell'alone di malinconia, quell'alone di tristezza che io... Ho rifiutato, mi sono potuto permettere di farlo, ovviamente per varie vicissitudini più o meno positive della mia vita, tipo il fatto che comunque ho iniziato fin da subito a considerare il mio campo d'azione molto più esteso rispetto all'Italia. Quindi per me c'è sempre stata una differenza, come dire, trascurabile fra il vivere a Palermo e vivere in un'altra città, perché tanto per andare a suonare da qualche parte sempre un aereo devo prendere. E quindi il fatto che possa essere Palermo, la mia città, è un valore aggiunto perché è una parte di me. Io sono convinto che se io decidessi un giorno di lasciare la mia città, significherebbe, uccidere una parte di me. A Palermo sono nate anche delle collaborazioni, delle amicizie. Io ho sentito un lavoro che hai fatto insieme a Di Martino, e poi un lavoro che ti riguarda, in particolare di ricerca musicale su La Llorona. Volevo chiederti perché hai scelto di fare questa ricerca su questa che è una musica, una canzone tradizionale messicana, giusto? Sì, in realtà da quella canzone, che è una mia ossessione, Ma perché è una tua poi è nato un progetto con Di Martino su Chavela Vargas, che è una cantante messicana che Sì. questa canzone la cantava. Appunto, è una mia ossessione. Perché? Perché una volta l'ho sentita cantare un amico spagnolo, un cantautore che si chiama De Pedro. Io non sapevo nulla di questa canzone, la sentii a un suo concerto e alla fine concerto andai lì e gli dissi: guarda, questa canzone è meravigliosa, complimenti. Pensando che fosse sua, che l'avesse scritta lui, questa specie di mantra un po' così oscuro e così pieno di immagini anche inquietanti. E lui mi disse: no, guarda, è una canzone tradizionale messicana. Allora io da lì cominciai, perché sono molto smanettone su queste cose, quindi ho cominciato a studiare un po' su questa canzone e ho scoperto che era anche una leggenda. Ho scoperto che la canzone appunto la cantava Chavela Vargas e da lì è nato il mio amore per questa cantante, ma ho scoperto anche il mito che c'è dietro questa canzone, antichissimo, precolombiano, che parla di questa donna india che per amore di uno spagnolo, di un conquistador, si lascia convincere ad annegare i propri figli nel fiume, perché così lei può sposare lo spagnolo e vivere questa storia d'amore, nonostante questo prezzo così alto. Però viene poi abbandonata dallo spagnolo e lei, insomma, c'è questa leggenda di questo fantasma che si aggira per il Messico, per queste città coloniali, gridando: ah, i miei figli, ah, i miei figli, perché lei muore e il suo fantasma rimane appunto con questo rimorso di non avere concluso nulla, né dal lato dal punto di vista dell'amore, né dal punto di vista della vita. Ay de mí, llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay de mí, llorona, llorona, llorona, Credo che questa qua llévame al río. sia una sorta di allegoria della storia dell'America Latina, di tutta l'America Latina. Quindi, se vogliamo, è con un processo come la Llorona che nasce il meticciato, quello vero, perché appunto la parte indigena di quel lato di mondo viene tradita dal conquistatore. E quello che resta che cos'è? È tanto amore, tanta morte e tanto dolore, che è un po' il mix che noi troviamo dappertutto nell'America Latina se veramente andiamo a scavare dietro gli stereotipi. Il Messico è pieno di questa cosa. E guarda caso, è un mix, è una miscela che io ritrovo esattamente identica con le stesse proporzioni nella mia Palermo, nella mia Sicilia, nella terra da cui vengo. Nel Quindi. sud anche, estenderei quasi Sì, se si infatti, può e c'è fare. questa sorta di di rivalsa nei confronti di qualcuno che ti ha tradito, e la possiamo declinare dal punto di vista della terra, della storia, delle singole persone, delle comunità. Ecco, quindi una canzone così forte che riesce a trovare un'identificazione anche dall'altra parte dell'oceano, in maniera assolutamente serendipica, diciamo, perché non è stata fatta per quello. Ecco, per me è una canzone magica, non è più una canzone, è quasi una formula magica. Per questo sono ossessionato da questo brano, che faccio sempre in ogni mio concerto. Fabrizio, l'ultima domanda che ti faccio è invece collegata ai tuoi concerti. Ci saranno dei concerti adesso, visto che è uscito da poco l'album? Ci sono delle date imminenti? Ufficialmente il vero e proprio tour di Of Shadows inizia il 29 novembre da Parigi, il 30 novembre sarò a Londra, il 2 dicembre ad Amsterdam, e poi dal 7 dicembre inizia il tour in Germania, che è un paese che io in cui giro parecchio da sempre. Lì andrò a Berlino, Amburgo, Monaco e altre città. Dopodiché per Natale torno a casa come tutti, e a gennaio comincia anche il giro in Italia. Continuerò a fare concerti di nuovo in Francia, e poi a marzo andrò negli Stati Uniti, dove suonerò anche al South by Southwest Festival. A questo punto ci dobbiamo proprio fermare, la prima volta termina qui. Potete riascoltarci in podcast andando sul sito di Radio 24 cercando La Prima Volta, potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Ringrazio tutti quanti voi e Fabrizio Cammarata in particolare per essere stati con noi. L'appuntamento è a domenica prossima, sempre alle 23. Un saluto da Cristina Carpinelli. La prima volta.